Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti a voi. Avevamo un appuntamento, eccoci, sono le 11.10. Abbiamo Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Forse mi sta arrivando il raffreddore, quindi prepariamoci. 824 0024 è il nostro numero verde. Vedete se mettervi in contatto con noi dopo aver sentito i titoli del nostro sommario. Nuoto, uno sport per amico. Occhiali 3D da indossare con le dovute attenzioni. Agli uomini piacciono formose. Sì, parleremo anche di donne formose, ma parliamo soprattutto di nuoto. Quindi preparatevi ad intervenire, diventate, come dire, testimonial di questo sport che ha fama di essere adatto a tutti e soprattutto completo. Del nuoto si dice sempre così. Allora, se il nuoto è il vostro sport ideale, raccontateci i benefici che vi regala. Se invece vi ha deluso o proprio non vi piace, raccontateci perché. E fatelo soprattutto voi che avete nel nuoto qualche perplessità, perché in studio noi siamo molto di parte, abbiamo il dottor Franco Confalonieri, che è un grande sostenitore del nuoto. Dottor Confalonieri. Sì, diciamo che oggi gioco in casa perché io sono nato con il nuoto e rimane la mia grande passione. Un pesciolone, come, insomma. Sì, come appassionato di sport. E direi sì, si dice spesso che il nuoto è lo sport più completo, che il nuoto crea un bel fisico, che il nuoto non determina sovraccarichi, tutto vero. Però io vorrei sottolineare un aspetto che si sottolinea raramente rispetto al nuoto, che il nuoto ci consente di giocare con l'acqua. E se noi pensiamo ai bambini, ma pensiamo anche a noi stessi, l'acqua forse è il gioco più bello, più antico, io lo definisco spesso il gioco primordiale. Cioè, il nuoto ci consente di giocare, ci consente di tornare o di restare bambini, e quindi forse è uno sport bello soprattutto per questo. Comunque sono pronto a essere smentito, oppure sono pronto a trovare anche qualcuno che mi sostiene dai nostri ascoltatori. In linea con noi abbiamo un grande campione, Emanuele Merisi, medagliato olimpico e per anni capitano della nostra nazionale. Emanuele, ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Emanuele, il dottor Confalonieri diceva perché nell'acqua si gioca, ma nell'acqua si vince. Esatto. E tu hai vinto parecchio. Sì, nel mio curriculum posso vantare fortunatamente 4 Olimpiadi, diversi titoli italiani assoluti, 7 medaglie agli europei, quindi sì, il mio curriculum fortunatamente è molto ricco. Sì. Senti, il dottor Confalonieri dice rende anche il fisico più bello. In effetti il fisico dei nuotatori è un fisico da fischio. Noi donne, quando vediamo le gare di nuoto, devo dire che ci brillano un po' gli occhi. È proprio così, vero Emanuele? Siete scolpiti? Vediamo soprattutto in questi ultimi anni che anche i mass media si sono accorti di non nuotatori. Abbiamo visto anche diverse pubblicità che utilizzano nuotatori sulle riviste, quindi diciamo che soprattutto per le donne è un bel vedere. Eh sì, certo. Senti, e ti hanno mai fatto qualche proposta? No, dicevo, pensavo per le pubblicità, non pensavo a proposte indecenti. Pubblicità, una volta ho fatto delle fotografie per una, però era per una banca, quindi non... Quindi non in costume, un'occasione persa. Esatto. Intanto, dottor Confalonieri, come sempre, le domande per i nostri ascoltatori. Ma sì, io vorrei soprattutto fare due domande un po' diverse oggi. Capire innanzitutto perché avete provato ad andare in piscina o perché avete provato a nuotare, perché siete scappati. Perché per tanti invece il nuoto non è così bello, ma ha rappresentato un problema e quindi l'hanno abbandonato. Oppure vorrei sapere, siete ormai di una certa età, un po' come noi, diciamo. No, parli per lei, scusi. Emanuele, scusa, ti pare o no? Va bene, un po' come di una me, certa età. Non avete mai pensato a nuotare? Che cosa vi frena o che cosa vi spinge rispetto ad avvicinarvi alla piscina? Quindi oggi vorrei che ci rispondessero anche queste due categorie di ascoltatori, se vogliamo, forse un po' diverse. Parleremo naturalmente di bambini anche. Parleremo un po' di tutte le età, pregi, benefici, limiti, controindicazioni del nuoto, a partire dai neonati per finire agli over 80. 824 0024 349 238 6666 se invece preferite scriverci. Una mela al giorno. Per nuotare notare, molti usano gli occhialini. Noi ora parliamo di un altro tipo, di quelli che si indossano al cinema, gli occhialini 3D, quelli che permettono di vedere in versione tridimensionale. I bambini ne vanno pazzi, ma devo dire che ho letto, anzi, che la moda si è lasciata contagiare perché Burberry, il famoso marchio dell'eleganza inglese, ha proprio trasmesso la sua sfilata in 3D contemporaneamente a Parigi, New York, Dubai, Tokyo e Los Angeles. Ma c'è sempre un ma. Gli occhialini piacciono, ma non convincono tutti. Il Ministero della Salute tiene alta la guardia dopo alcune segnalazioni e anche il ritiro da parte dei NAS di 7.000 paio di occhialini che presentavano etichettatura irregolare. Insomma, gli occhialini fanno discutere. Sembra infatti che potrebbero essere veicolo di infezione alla cute e agli occhi, provocare mal di testa o addirittura, pensate, invitare a nozze i pidocchi. Allora ho pensato di chiamare due esperti, il professor Stefano Verà, di professore associato presso la clinica dermatologica dell'Università di Milano, e il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno a tutte e due. Buongiorno. A cui chiederemo di darci il loro disinteressato parere. Iniziamo, professor Veraldi, da lei. Secondo lei è possibile che gli occhialini trasmettano micosi, infezioni e addirittura pidocchi? Allora, io risponderei in questi termini. Ritengo la cosa possibile ma improbabile. Nel caso specifico dei pidocchi, perché il pidocchio vive male lontano dal suo habitat naturale, che è rappresentato dal cuoio capelluto. Sì. Sembra che possa vivere solo alcune ore. E è dimostrato ormai da tantissimi studi clinici e epidemiologici che la trasmissione della pediculosi è prevalentemente per contatto diretto, protratto, continuativo, quindi pelle-pelle, cuoio capelluto. Ad ogni modo è possibile, ripeto, ma secondo me è improbabile la trasmissione della pediculosi tramite gli occhialini. Per dare una risposta più completa alla sua domanda, quindi per quanto riguarda altre infezioni, per esempio batteriche, ricordo che il germe che più frequentemente causa infezioni batteriche della pelle è lo stafilococco aureo, che è un batterio ormai direi cosmopolita e che si ritrova praticamente in tutta l'oggettistica. Sì. Scusi, per quanto riguarda invece le micosi, quindi da contatto, che cosa è possibile? Che indossando gli occhialini io mi prenda un funghetto dello spettatore dell'appuntamento di prima? Darei la stessa risposta che ho dato prima. È una cosa teoricamente possibile, ma la ritengo altamente improbabile. Quindi, professor Veraldi, lei li mette gli occhialini 3D? Se va al cinema glieli danno, quali attenzioni avrebbe? Nessuna. Ottimale sarebbe come per le cuffie che si usano in aereo. Una sterilizzazione, questo sarebbe ottimale sulla carta, oppure degli occhialini monouso. Tuttavia, certo, vivrei il problema, se si tratta di problema, se lo vogliamo chiamare in questi termini, sì, mettiamoci le virgolette a questo problema, distacco, con certo, un po' di rilassatezza. Grazie, professor Veraldi. Allora, lei ci manda un messaggio di tranquillità. Vediamo che cosa ci dice il nostro dottor Antonio Scialdone. Buongiorno di nuovo a lei. Buongiorno, dottore. Con lei andiamo ai nostri occhi. È certo possibile che uno, dopo che si è infilato questi occhialini, torni a casa con un inizio di congiuntivite, o se la deve aspettare? Dunque, diciamo, nel problema che di questi occhialini ci sono due aspetti. Uno è quello, diciamo, sanitario, e l'altro è quello funzionale visivo, cioè di qualità della vista. Sì. Dal punto di vista sanitario non c'è nessun problema se il cinema o lo spettacolo distribuisce degli occhialini già confezionati, che sì, dopo l'uso vengono buttati. Certo. L'altro aspetto, di tipo invece funzionale, visivo, di qualità, può porre problemi in due casi. Da una parte, se la qualità di questi occhialini è talmente bassi, è talmente bassa, quindi anche senza le norme, quel minimo di norme CE che vengono diciamo così imposte o dovrebbero essere imposte, allora la qualità della visione può non essere effettivamente, possono dare fastidio. Sì. Se invece sono a norma, cioè su un minimo di qualità sufficiente, se sono fatti per bene possono dare fastidio alle persone che non hanno una cooperazione binoculare. Che parola difficile. Vuol cioè? Dire che noi vediamo in tre dimensioni normalmente nella nostra vita, quindi vediamo le profondità, perché il cervello mette insieme le immagini dei due occhi. Sì. Quindi se io sono strabico e ho un occhio che mi va da una parte o da un'altra, ho quasi sempre un occhio migliore e un occhio peggiore. Il cervello non può guardare due immagini che sono una a destra e una a sinistra. Certo. Quindi un occhio verrà escluso. Lo strabico vero non avrà nessun problema da questi occhialini, perché in pratica il cervello funziona con solo un occhio per volta. Purtroppo vedrà il film male, perché le due immagini, l'occhialino è polarizzato, quindi manda due immagini diverse, lui ne vedrà solo una, quindi il film sarà brutto, sarà insoddisfatto della visione. Quelli che andranno veramente in difficoltà e usciranno col mal di testa sono le persone che hanno, magari non lo sanno la maggioranza, hanno un funzionamento diciamo buono ma con fatica, hanno cioè un difetto di, come dire, di cooperazione tra i due occhi, il cervello fa fatica a metterli insieme, ma nella vita quotidiana magari Non se ne rendono conto. Siccome il cinema in tre dimensioni sdoppia le immagini, perché quella di un occhio non è uguale a quella di un altro, infatti se lo guardiamo senza gli occhialini li vedremo tutto un po' vibrare, lo schermo è brutto brutto, me li devo mettere per vederlo bello. Sì. Esattamente. Allora in questo caso, se il cervello non unisce bene le immagini, il mio cervello farà molta fatica e uscirò col mal di testa. Quindi, è chiaro che il direttore del cinema è impossibile che sappia. Certo, non è che può venire a casa. Dottor Cialdone, però noi possiamo quindi dare un'indicazione: se uscite con il mal di testa dopo aver visto il film con gli occhialini 3D, che vi suoni un campanellino d'allarme, fatevi controllare da un oculista, perché può darsi che proprio grazie a questi occhialini 3D magari avete scoperto un difetto di cui non eravate a conoscenza. Così. Possiamo, tanto per vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Dottor Cialdone, grazie, buona giornata. Grazie a voi. Dottore, lei nuota? Io nuoto, certo. Ho fatto i campionati regionali tanti anni fa della Toscana. Magnifico, grande dottor Cialdone. Ma l'ultimo però. L'importante è partecipare. Noi il campione ce l'abbiamo, Emanuele Merisi, ha vinto già lui per noi. Grazie dottor Cialdone, buona giornata. Pronto soccorso. Allora sì, gli occhialini ce li togliamo. Lei nuota con gli occhialini? Sì, assolutamente sì. Perché sennò bruciano non troppo. Si riesce a restare in acqua più a lungo. Emanuele, tu sempre occhialini? Sempre. Allora, riprendiamo a parlare del pro e dei contro, perché vogliamo anche, adesso non è che perché abbiamo il dottor Confalonieri che è un appassionato, abbiamo un grande campione che dobbiamo parlarne solo bene, ma vorremmo seguire come fil rouge, le varie fasi d'età. Dottor Confalonieri, da qualche anno c'è la moda di portare questi bimbettini proprio piccoli, di pochi mesi, in piscina, per i corsi di acquaticità. Lei che cosa ne pensa? Ho un po' di perplessità. Per essere molto sintetico, direi che i corsi di acquaticità sono sicuramente utili nel rapporto genitore-figlio, nel senso che creano una nuova dimensione nel rapporto tra la madre e il bambino, tra il padre e il bambino. Rispetto all'evoluzione motoria del bambino e soprattutto rispetto a un'eventuale facilitazione poi nell'apprendere la tecnica del nuoto, servono davvero poco. Emanuele, scusami, tu a che età hai cominciato? Io a 7 anni, 8 anni, quindi abbastanza tardi. Quindi non è che, come pensiamo molti genitori, come me, prima inizia e più e poi... No. Vero? No. No. Senti, e con tuo figlio come ti sei comportato? Allora, io l'ho iscritto ultimamente, proprio un mesetto fa, 4 anni e mezzo mio figlio, quindi l'ho iscritto da 2 mesi in una piscina qui vicino a casa e incomincia... come aveva detto il dottor Confalonieri, a giocare con l'acqua, che è fondamentale, credo, per i bambini. Io immagino il maestro, l'allenatore, come si chiama? l'istruttore, ecco, non mi veniva la parola, che tra i vari bambini ne ha uno che si chiama Merisi e dice, sarà magari un caso di... No. È proprio lui. E quindi sarà abbastanza difficile. Sì, dottor Confalonieri. Ecco, direi che questa scelta è una scelta che io condivido assolutamente. Cioè, se c'è da indicare un'età alla quale cominciare, direi verso i 4-5 anni, un'età in cui si fa della vera acquaticità, in cui il contatto con l'acqua diventa molto importante per migliorare la propria intelligenza motoria. Fino ai 6-7 anni lavoriamo proprio per imparare a usare il nostro corpo nell'acqua, e poi a partire dai 6-7 anni possiamo apprendere la tecnica dei diversi stili. Quindi direi che la scelta in questo caso di Emanuele è una scelta assolutamente corretta. Sentiamo Alberto, ci chiama da Firenze all'800 24 00 24. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori. Volevo aspettare una lancia in favore del voto, perché soprattutto per le persone leggermente sovrappeso come sono io, dà una certa facilità a fare uno sport che ti dà la possibilità di smaltire un po' di calorie in eccesso, e in più ti fa tanto benessere. Ho fatto piscina anche ieri sera a Como, perché in giro sempre per lavoro e tutto un po' le piscine di Italia. Ah, lei sta girando un po' le piscine d'Italia anche? Sì, giro a Milano, ho trovato la piscina storica di Trenta Pennelli, a Como, sono spesso in Alta Italia, quindi giro un po' le piscine non solo della Toscana ma un po' di tutta l'Italia. Ah, vedi che ci ha detto una cosa, ecco, una cosa, un consiglio, un suggerimento, dottor Confalonieri: città che vai, piscina che trovi. Sì, almeno tre suggerimenti. Il primo: sono in leggero sovrappeso e nuoto, scelta ottimale, perché nel nuoto non ci sono sovraccarichi e quindi posso fare uno sforzo anche prolungato senza danneggiare le articolazioni. Inoltre è uno sport indicato perché c'è un consumo calorico elevato e quindi magari correggo un po' anche il sovrappeso. Secondo punto, il nuoto si può praticare un po' dappertutto. È un po' come la corsa da un certo punto di vista, cioè in qualsiasi piscina ci sono mediamente gli orari del nuoto libero, in cui con una cifra molto modesta io posso entrare, trovare la mia corsia, nuotare e mantenermi in forma, fare una specie di giro d'Italia delle piscine. Fabio ci chiama dalla provincia di Treviso. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Allora, come andiamo, Fabio? Sì, benissimo, grazie. Bene. Volevo fare una considerazione un po' sul nuoto, no? Sì. Che io trovo molto strano dal punto di vista, appunto, che quando te ne vai a nuotare scarichi la colonna vertebrale e così via, però lo trovo uno degli sport più noiosi del mondo, tenendo conto che poi una volta che sei in piscina tutte le piscine sono uguali, per star bene devi fare avanti e indietro, per cui sotto vedi solo la riga nera della piscina, arrivi in fondo e torni indietro, non puoi parlare, insomma respiri un po' il cloro, che non è che sia una roba così sana. Io le dico, vado a correre tre volte alla settimana, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, faccio sì. dai 15 ai 20 chilometri, poi una volta alla settimana vado in piscina per scaricare un po' la schiena, no? Sì. E così via. Però quando esco da lì c'ho sempre gli occhi che piangono, nonostante metta gli occhialini. Insomma, sì, gli occhialini anche con sono un po' orbo, mi mancano 5 diottrie, allora metto quelli graduati e così via. Quindi Fabio, lei lo fa più per dovere che per piacere. Esatto, perché ho il piacere di correre con gli amici. Adesso non abito più a Milano, abito a Treviso, ci sono dei bei parchi e per cui ti diverti parecchio. Mentre la piscina avanti e indre l'annoia un po'. Insomma, lei è una roba. Lena roba, dice Fabio. Ecco, siamo tornati, oggi andiamo in piscina, anzi molti di voi staranno preparando il sacco per andare a nuoto, perché sempre più spesso, dottor Confalonieri, incontro persone che mi dicono che nella pausa pranzo vanno proprio in piscina. Sì, è sempre più diffuso, indubbiamente il nuoto per gli adulti, per i giovani adulti è uno sport indicatissimo, perché migliora l'efficienza dell'apparato cardiovascolare, tonifica la muscolatura, non sovraccarica. L'unica avvertenza che io darei è: ricordatevi di fare una merenda sostanziosa a metà mattina, cioè non andate a nuotare a mezzogiorno senza aver mangiato a metà mattina, perché sennò rischiate l'ipoglicemia, e invece di fare qualcosa che vi fa bene fate qualcosa che comporta dei rischi. Emanuele, noi avevamo in sospeso una risposta al nostro ascoltatore che diceva del nuoto: sì, io però vado in piscina, avanti andrei con queste vasche, però alla fine che cosa faccio? No, vedo sempre il fondo, tocco la piscina, poi il bordo e ritorno, insomma. Emanuele, tu, una gran noia, diceva. Tu che cosa puoi dire? Beh, se io ho smesso 33 anni di nuotare perché effettivamente mi divertivo, è difficile anche spiegarlo agli ascoltatori, però a me piaceva davvero fare fatica, stare in compagnia dei miei compagni di allenamento, avevo degli obiettivi ambiziosi, quindi naturalmente lo, sti- stimolo era decisamente magari maggiore, però il gran divertimento sta alla base comunque di ogni cosa, credo, no? Io sono assolutamente della tua idea. Io, il dottor Confalonieri, non so se lei ha vinto mai. Io non ho mai vinto, la migliore volta. Nuotata e non ha visto nulla. Ho nuotato, gareggiato, quando sono andato bene sono arrivato penultimo, meglio dire secondo, ma eravamo in tre. E mio padre lo ricorda ancora come un grande successo perché sono tornato a casa con la medaglia. Però direi che non si può obbligare la gente ad amare il nuoto, secondo me è per persone che stanno bene nell'acqua e con questo rapporto un po' particolare con il proprio corpo e con la propria mente. Ci sono proprio le persone che amano nuotare e le persone che amano correre. Quelli che amano correre come il nostro ascoltatore, è giusto che nuotino soltanto per defaticare, per scaricare la colonna e le articolazioni. E poi una delle accuse che si fa al nuoto è che non è uno sport socializzante, però non è poi sempre così, perché dipende un po' dalla persona. Ci sono, come si dice quando si incontrano persone che parlano volentieri con gli altri, dice, tu fai parlare anche le pietre, e in linea con noi abbiamo un amico che riesce a far parlare anche forse le piscine, Sergio Sgrilli. Ciao Sergio. Ciao Nico, ciao a tutti. Senti Sergio, tu sei pro socializzazione, riesci a socializzare ovunque con chiunque, anche in piscina. Tra l'altro tu sei un grandissimo nuotatore, ho scoperto che hai tanti brevetti. Ma io sono un appassionato di nuoto, dell'acqua, perché sono nato e cresciuto in contatto con l'acqua. Ho avuto la fortuna di nascere in una casa con due ingressi, uno sulla pineta e uno sulla spiaggia, quindi il mare è dentro di me e la sabbia era dentro casa, insomma. La mamma poi ha provato anche un anno a tenere la moquette, ma non era un esperimento. Non li avevo. Devo dire che vi ascoltavo, sono in viaggio, mi sono fermato per parlare con voi e mi riaggancio a quello che ha detto Emanuele, nel senso che è tutto un fatto di obiettivi. Lui aveva sicuramente obiettivi diversi dai miei. Io ho iniziato a nuotare per una scommessa fatta con me stesso e poi però sono riuscito più volte a socializzare, perché il mio obiettivo era quello di conoscere le persone. Io sul palco, nei miei spettacoli, racconto la vita e le persone, e quindi ci sono tutte quelle piccole tecniche per socializzare che si possono mettere in pratica ovunque, da quando si va a fare la spesa, che sei davanti lì, l'uomo davanti a detersivi che non sa bene quale scegliere, ma in realtà lo sa, però fa aspetta finta. La bella ragazza . E quando si presenta la vecchietta anziana che ti dice sì, prenda quello, e te gli dici vai via. Così lo stesso in piscina, io più di una volta, vedendo per esempio la bella ragazza atletica e con la faccia, insomma, buttando via un po' la faccia e la dignità, facevo finta di non saper nuotare a questo piuttosto che a quest'altro, oppure se vedevo una ragazza in difficoltà, con il sorriso dicevo guarda, se ti posso ti do un consiglio. Quindi è tutto un fatto di obiettivi, nel senso che è vero che fare su giù tendenzialmente potrebbe sembrare una solitudine, ma in realtà quando poi si è fatto pace con l'elemento acqua è una grande comunità, che siamo lì e siamo tutti lì nudi, come si dice in Maremma, tutti nudi, lì re è nudo, e quindi non è la borsa firmata o l'abbigliamento griffato, siamo noi con il nostro corpo, e quindi lì, perché no, socializzare, parlare e conoscere. Senti Sergio, hai dato molti spunti al dottor Confalonieri, che sono certa che non ha mai pensato alla piscina sotto questo punto di vista, o svegliamo invece un suo cotè di conquistatore lungo i bordi della piscina? Sì, però dal bordo, non dall'acqua, sì. Così ero mascherato. No, però quest'idea dell'acqua come elemento non solo con cui si ricomincia a giocare, ma anche che mette in rapporto tutti nudi, come diceva Sergio, è molto bello, non ci avevo mai pensato, e credo che sia una risposta ulteriore proprio a coloro che vanno in piscina e trovano gratificazione, oppure uno stimolo per coloro che non hanno ancora provato, ritenendo che potrebbe essere noioso. Senti Sergio, io di solito quando ho degli amici che fanno serate in giro per l'Italia dico potete incontrarlo e vederlo, però le tue sono assolutamente sempre al completo, per cui anche a Rimini ormai non c'è più posto, potevate vederlo, ma ciao, guarda, i biglietti sono venduti e... tocco ferro, predici così e spero che sia sempre così. E certo, perché noi portiamo buono. Sergio, un abbraccio, grazie. A tutti voi, ciao Nico, ciao. Luca da Udine, buongiorno. Buongiorno a voi. Luca, ha incontrato mai qualche fidanzata in piscina, lei? No, in piscina no, sinceramente, anche se ho nuotato per parecchi anni anche a discreti livelli, mi sono sempre trovato bene, piuttosto rispetto all'ascoltatore di prima mi annoio a correre, ho provato a fare anche quello, invece mi annoio molto di più. Invece lei punta sul nuoto e questo è quello che ci vuole dire o ha una domanda? Sì, no, per... allora praticamente io volevo farvi una domanda, perché una bambina di 3 anni e 2 mesi, sì. Io ho sempre adorato l'acqua in tutte le sue forme, sia piscina che mare, e fin da piccola mi sono ritagliato ogni sera lo spazio con la bimba quando tornavo a casa dal lavoro e facevamo il bagnetto insieme per abituarla a giocare nell'acqua. Tuttora lei le piace molto l'acqua e cerchiamo con mia moglie di andare in una piscina termale, sì, quanto più spesso è possibile, compatibilmente, dove lei, io la faccio, le do i primi rudimenti praticamente. In questo, sì, momento lei adora tanto l'acqua, si butta, si lancia proprio senza braccioli e già dimostra una buona acquaticità. Volevamo però mandarla in a fare qualche corso, sì, per iniziare a saper nuotare. I primi movimenti li fai già 3 anni e pochi mesi, dottor Confalonieri, aspettiamo o ci buttiamo? Ma le scelte sono corrette, sono giuste, l'acqua termale, perché un bambino comunque ha bisogno di un'acqua 31-32 gradi per poter giocare, per potersi tuffare. Io direi soltanto una cosa, è giusto cominciare, magari aspettare ancora un po', non si spaventi il nostro amico se magari tutta la confidenza che ha adesso tra un anno o due la perderà, perché proprio la paura dell'acqua spesso arriva più tardi, arriva con un'evoluzione della coscienza, e quindi anche il bambino che è molto disinvolto a 3 anni potrebbe avere paura a 4-5 anni. Non si spaventi, è normale, cerchi di proseguire questo percorso portandolo in acqua verso i 4 anni. Emanuele, tu sei d'accordo? Decisamente sì, perché lo provo con mio figlio, quindi con Davide, vedo che quando aveva 2-3 anni al mare si lanciava, stava benissimo in acqua, e adesso con l'istruttore ha qualche difficoltà, qualche piantarello lo sta facendo, ecco, quindi... Ecco, bravo, hai toccato un tema che ritorna, un problema che ritorna negli sms dei nostri ascoltatori, il piantarello, tu fai finta di niente? Io, se devo essere onesto, non ci sono mai andato, perché va sempre mia moglie, va sempre mia moglie con il bambino. È un classico, sì. Poi ho provato quando era molto più piccolo con me, ma faceva a mo' di koala, quindi sì, si aggrappava, non si staccava più. D'altra parte poneva bene la sua fiducia, no? Perché dice, insomma, c'è un papà così, mi accozzo. E quindi ho preferito appunto mandarlo con un altro istruttore, con proprio un'altra piscina, e mia moglie mi dice che comunque lei si tiene a distanza, perché comunque non vuole interagire perché gli istruttori giustamente dicono, è bello che il bambino sappia che ci siete, ma però non intervenite, ecco, quello. Giustissimo. Ecco, siamo tornati insieme, abbiamo Sergio che ci chiama da Milano, buongiorno Sergio. Buongiorno, Luca, io chiamavo per questo, volevo solo in parte confutare un po' quello che ha detto il dottor Confalonieri. E vai, Sergio. Per quanto riguarda il nuoto, l'inizio del nuoto ai bambini piccoli, ai neonati, io ho avuto un'esperienza che tra l'altro conferma l'ultima cosa che aveva detto, cioè che a una certa età c'è con lo sviluppo un po' un rifiuto. È un rifiuto, ecco, io con gli altri figli ne ho un po', ho avuto questa esperienza. Scusi, ne ha un po', quanti ne ha? No, ne ha uno molto grande che ha fatto questo iter, che a una certa età ha avuto un rifiuto totale, ho dovuto portarlo in piscina dagli istruttori, piano piano poi l'ha superato. Sì. Un altro che adesso ne ha 18 e che anche lui un po' meno, ma ha subito questo iter, però invece la bimba, quella che adesso ha 13 anni, Anna, ho fatto fare questo corso per neonati, al quale ho partecipato anch'io, perché si partecipa anche come genitori, no? Lei non ha mai avuto questa crisi, lei ha avuto un'acquaticità enorme, subito, immediata, e ha amato l'acqua. Non a caso è femmina, dottor Confalonieri, cosa dice? Dico che sicuramente il fatto di portarli porta un vantaggio, perché perlomeno conoscono l'ambiente, conoscono lo spazio, conoscono le persone, suoni, rumori, luci e l'acqua stessa. E questo riduce la paura o il rifiuto che può esserci a 4 o 5 anni. In termini di apprendimento in funzione di un apprendimento più rapido delle tecniche, invece rimango un po' del mio parere, non è così funzionale ad apprendere più rapidamente a nuotare. Roberto ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sta andando a nuotare, Roberto? No, sono pronta la borsa in macchina, ci vado oggi pomeriggio. Vede che ci ho quasi preso, una strega. Allora, da quanto tempo nuota e quante volte va a nuotare? Dunque, io fino a 52 anni non sapevo nuotare. Poi per un caso fortuito mi sono iscritto a un corso di nuoto. L'istruttrice mi ha detto che non avevo acqua di città, era meglio che lasciavo perdere. Io ho insistito con un altro istruttore. Tant'è che mi sono iscritto pure alle gare nuoto di Master, arrivando addirittura terzo a un campionato qui romano. Beh, campionato nazionale romano. Dottor Confalonieri, impari un po', altro che secondo su tre. Bravo Roberto. E ho imparato, ho preso anche, poi mi sono intestardito, ho preso anche il brevetto di istruttore di nuoto. E poi è andato da quella istruttrice? E ho cercato, dico, se vuoi vengo io a insegnare nuoto ai tuoi allievi. Però no, perché non bisogna stravincere, Roberto, ha ragione. Quindi, adesso continuo a nuotare sempre, arrivo anche a 3, 4, anche 5 volte a settimana. Ultimamente ho un problema alla spalla e quindi ho dovuto rallentare. E volevo dire due cose. Uno, ho avuto un grossissimo vantaggio a livello di pressione arteriosa, quindi riesco a controllarla abbastanza meglio con il nuoto. E l'altro, contro la noia. Ho sentito molta gente che si annoia, è vero. Io l'ho risolta con una radio iPod sintonizzata ovviamente su Radio 24. Magnifico, Roberto. Le vasche volano. Quindi ogni tanto sono in vasca con lei, Roberto? Sì, sicuramente. Va bene, allora magnifico. Allora, dottor Confalonieri, Emanuele quindi vuol dire che al venerdì porta in vasca anche lei. Roberto. So. Sì, Roberto. Stava nuoto al pomeriggio, per fortuna. No, è molto interessante questa telefonata, ci consente di fare una brevissima analisi sui pro e contro del nuoto in età anziana. Sicuramente importante perché ha problematiche di sovrappeso, di ipertensione, di diabete, migliora sicuramente questo tipo di situazione. Una controindicazione è emersa, Roberto parlava di problemi alla spalla, indubbiamente nel nuotare a lungo in modo ripetuto c'è un sovraccarico della spalla, quindi bisogna fare un'adeguata ginnastica posturale di compenso. E un'unica avvertenza: se avete problemi a livello cardiologico, invece state attenti, perché comunque l'ingresso in acqua rappresenta un agente stressogeno a livello cardiovascolare, quindi va fatto con estrema attenzione e bisogna vedere come risponde il nostro organismo appunto all'immersione in acqua e al posizionamento in orizzontale. Emanuele, il tuo organismo, come appunto diceva il dottor Confalonieri, invece all'acqua ha reagito benissimo e con grandi risultati. Ma tu, che oltre campione sei stato anche allenatore, quale consiglio ti senti di dare ai nostri ascoltatori che hanno iniziato, come Roberto da Roma, il nuoto non proprio da piccolissimi? Sicuramente se lo fanno volentieri e questa mezz'oretta, quest'oretta passata in piscina è uno svago per loro, sicuramente di continuare a farlo, perché devono trovare un beneficio nella pratica sportiva e soprattutto nel nuoto. Quindi se si trovano che sia per loro una cosa positiva, che naturalmente continuano a farlo. Io adesso ho perso un po' l'abitudine perché l'ho fatto per 25 anni tutti i giorni il nuoto, però mi accorgo che quando nuotavo avevo molti meno acciacchi. E adesso invece? Adesso un po' di dolorini qua e là, un po' la schiena. Ecco, vedi, perché io cerco sempre personaggi che vengano a raccontare un po' i loro piccoli acciacchi o come si tengono in forma, per cui ti schedo. Dottor Confalonieri, Emanuele naturalmente si allenava come tutti gli atleti ogni giorno, ma quante volte bisogna andare in piscina per vedere i risultati? Ad esempio per chi vuole iniziare ad andare in piscina ora per la famosa prova costume, perché ci siamo, bisogna iniziare presto. Per entrare, minimo due volte a settimana per 45 minuti, direi. Questo è il minimo. L'ideale sarebbe tre volte a settimana e già si possono vedere effetti importanti, con un suggerimento. Qualora il problema che hanno molti in piscina è che non hanno una tecnica particolarmente evoluta, quindi non riescono a nuotare in modo continuativo. Allora il mio suggerimento è innanzitutto imparate a nuotare meno peggio possibile uno stile. non dovete porvi subito come obiettivo quello di nuotarli tutti e quattro o almeno tutti e tre, e poi utilizzando questo stile fate del lavoro intervallato: una vasca a velocità media, neanche troppo piano, pausa 15-20 secondi, un'altra vasca, e nuotate in questo modo per 30-40 minuti. Questo è alla portata di tutto, di tutti, ed è molto efficace sia dal punto di vista dell'allenamento cardiovascolare sia dal punto di vista del dimagramento. Invece ci sono persone che pensano: devo fare assolutamente almeno tre vasche di fila. Esatto, no. E poi arrivano, poi peggiora con la lingua tecnica, che tocca al fondo. Si fanno male, si sovraccaricano. Molto meglio fare così. Oltretutto ci diamo un'occhiata in giro e quindi ritorna anche l'elemento socializzante che si diceva prima. Eddie da Brescia, buongiorno. Buongiorno, oh. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Voglio dare anche io il mio contributo. Io sono mamma di due bambine, una bimba di 4 anni che è già da settembre dello scorso anno che nuota regolarmente una volta alla settimana, sta facendo un corso di acquaticità, e un bimbo di 11 anni che è un piccolo agonista. Da quando ha 4 anni che fa i corsi, a 8 anni ha iniziato con la propaganda e ora fa agonismo. La mia perplessità è quella: come caspita fa a nuotare un'ora e mezza avanti e indietro, come diceva il signore prima, tre volte alla settimana, ma lui si diverte un mondo, gli piace tantissimo, tutti e due si divertono con l'acqua. Bene, bene, tutta salute, come si dice, Eddie. Emanuele, hai sentito, c'è un campioncino in erba. Bene, sono molto contento, anche così vanno a crescono appunto i campioni anche a livello giovanile, anche nel nuoto italiano, che non fa mai male. Senti, ma quando è che si capisce che il bambino o la bambina ha delle potenzialità? Insomma, potrebbe diventare un campioncino, Emanuele? Ma io parlo per la mia esperienza. Sì, direi che è un'ottima esperienza, super qualificata. Diciamo che quando mi hanno insegnato i quattro stili, ma è venuta una cosa molto naturale, naturale. L'istruttore mi ha detto: guarda, questo, parlando con i miei genitori, mi ha detto questo avrà un futuro, perché avevo un galleggiamento fuori dal comune. E quindi mi veniva molto, tutto molto naturale, soprattutto il dorso. Io ho fatto dorso per tantissimi anni, quindi insomma, si vede, si butta... Non ho sbagliato sport, ecco. Ero nato proprio per quello. E non hanno sbagliato neanche gli istruttori, che ci avevano vista lunga. Emanuele, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Un grazie saluto al tuo bambino. Grazie. Dottor Confallonieri, resta con noi. Pensando. Perché prima di chiudere vi segnalo che domenica 28 febbraio è la giornata delle malattie rare. C'è un tema scelto che vi voglio proprio raccontare, voglio sottolineare alla vostra attenzione: pazienti ricercatori insieme per la vita, uno slogan per proprio sottolineare il rapporto tra la ricerca scientifica e le malattie rare, e anche direi la sua personificazione nel rapporto ricercatore-paziente. Oggi ne parliamo con la dottoressa Domenica Taruscio, direttore Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Taruscio, buongiorno. Buongiorno a lei. Avete appena concluso un convegno dove la ricerca internazionale si è messa a confronto. Che cosa è emerso da questo convegno, dottoressa? Sì, abbiamo appena concluso un convegno internazionale all'Istituto Superiore di Sanità, che è durato per l'appunto dal 22 febbraio al 25, per onorare questa giornata dedicata mondiale, dedicata alle malattie rare, un'alleanza fra ricercatori e pazienti. Sono emerse cose interessantissime. La ricerca italiana, in collaborazione con molti ricercatori europei e anche a livello internazionale, è molto molto quotata. Abbiamo ricercatori che hanno portato eccellenti risultati con pubblicazioni nelle migliori riviste internazionali per quanto riguarda la ricerca di geni, di nuovi geni malattie, di nuovi input per le terapie innovative e quant'altro. La cosa importante è che l'Italia quindi si pone in un contesto d'avanguardia nella ricerca scientifica, e l'alleanza con i pazienti è fondamentale, è stata fondamentale per dare spunto, certo, diciamo, a determinate tematiche, e soprattutto per umanizzare, fra virgolette, la ricerca scientifica. Questo è molto importante. Sì. Dottoressa, io voglio ricordare che c'è un numero verde a disposizione dei pazienti, ricercatori, medici, chiunque voglia saperne di più: 889-6949. Potete rivolgere a questo numero verde. Dottoressa Taruscio, grazie per essere stata con noi. Grazie al dottor Confallonieri. Se siete interessati al cervello maschile, Attila, come si attiva vedendo le forme femminile sul sito, sul nostro sito, sull'home page di Essere Benessere, trovate un'intervista insieme al professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri. Volo, a domani con Questa casa non è un albergo. Buona giornata, buon nuoto se andate in piscina, da Nicoletta Carbone.